Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi la situazione della nostra economia è più positiva. Ha smesso di piovere, ancora non c'è il sole, ma vediamo le prime luci dell'arcobaleno. Queste, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le visioni poetiche del Presidente del Consiglio Renzi. Vediamo ormai l'arcobaleno, voi lo vedete l'arcobaleno domani, guardate fuori, adesso è un po' buio semmai, diteci poi se a vostra volta avete delle visioni così colorate e così positive. Di cose positive parleremo stasera, non tutte, perché sapete che c'è sempre una sequela infinita di notizie negative, però c'è una buona notizia per la Grecia, almeno in buona parte, con alcuni dubbi, però sembra che questo via libera sul piano delle riforme, quindi sugli aiuti, sia arrivato. Ci occuperemo anche degli accordi tra Italia e Francia. Oggi è stato il vertice tra Renzi e Hollande e sono stati firmati diversi accordi, tra i quali quello sulla TAV, sulla contestatissima TAV. Persino i verdi francesi hanno contestato piuttosto duramente oggi questa decisione ratificata. E poi c'è anche una buona notizia per quanto riguarda le devastazioni che io ho chiamato gli scempi degli empi a Roma, quelli degli hooligans del Feyenoord, degli olandesi, insomma, perché vi ricordate, intanto erano arrivati moltissimi vostri messaggi quella sera in cui era successo qui a Effetto Notte, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete continuare a scrivere, e anche i vostri commenti naturalmente attraverso gli sms al 349-238-6666. Ebbene, io avevo chiesto quella sera chi paga adesso, erano arrivati veramente moltissimi dei vostri messaggi, delle vostre riflessioni. Stasera si scopre che qualcuno pagherà, lo scopriremo più tardi, forse anche dai titoli che tra poco vi riepilogo. Se volete commentare questa notizia così come le altre della giornata, vi ripeto, 349-238-6666 per gli sms, oppure c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Ma intanto vediamo quali sono state le notizie principali della giornata. Grecia, l'Eurogruppo apprezza il piano di riforme del governo greco e proroga gli aiuti per 4 mesi. Per Draghi è un buon punto di partenza, ma ci sono delle lacune. E poi, per quanto riguarda le altre notizie, il vertice italo-francese, Renzi rafforza il patto con Olanda, sostegno sulla Libia, insieme anche per la crescita e le riforme. Il primo intervento pubblico di Mattarella, il presidente lancia un monito ai giovani magistrati, dice: i giudici non devono essere né protagonisti né burocrati. ISIS, i terroristi islamici assaltano i villaggi cristiani in Siria, decine di rapiti, scoperta una rete di jihad in Spagna e una cittadina francese è stata sequestrata a Sana'a, nello Yemen. Le devastazioni a Roma degli hooligans del Feyenoord, una società olandese si offre di restaurare la barcaccia. Tra poco ne parleremo col portavoce dell'ambasciatore olandese. E calcio in campo a Torino per la Champions League, la Juventus contro i tedeschi del Borussia Dortmund. E poi c'è la notizia che i mondiali del 2022 in Qatar si disputeranno a Natale per evitare il troppo caldo, ma insorgono le leghe europee. E partiamo quindi dalla buona notizia per la Grecia. L'Eurogruppo, vi dicevo, apprezzando il piano di riforme presentato dal governo greco, ha dato il via libera alla proroga degli aiuti da parte dell'Unione Europea, ma restano alcune riserve per diverse lacune che ha evidenziato anche il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, delle quali parleremo tra poco. In primo piano c'è anche il vertice italo-francese, oggi c'è stato a Parigi tra Renzi e Hollande, sono stati firmati vari accordi che vanno dalla TAV alla cooperazione sulla ricerca scientifica e tecnologica. Si è parlato anche di Libia, Renzi ha detto che per il momento un intervento di peacekeeping, anche guidato dall'ONU, non è al momento previsto, ma ci collegheremo dopo direttamente con Parigi per avere maggiori dettagli. E poi si parla anche, restando sulla pagina estera, di Egitto. C'è per noi in Egitto la nostra Livia Zancaner. Ciao Livia. Ciao Roberta e buonasera a tutti gli ascoltatori. Livia in Egitto con la missione imprenditoriale promossa dal governo italiano e organizzata tra gli altri anche da Confindustria. Erano presenti in questa missione 80 aziende italiane, oltre una quarantina di imprese egiziane, con l'obiettivo di valutare le opportunità di investimenti delle aziende italiane nel paese, in vista anche della conferenza di Sharm el-Sheikh di metà marzo, quando il governo egiziano presenterà il nuovo piano di investimenti di 4 anni per risollevare l'economia. Livia, al di là di questo, però, sappiamo, parlando di ISIS, parlando di terrorismo internazionale, che l'Egitto è in prima linea nella lotta contro l'ISIS, è stato il primo a bombardare in Libia le postazioni dell'ISIS. Quindi l'Egitto probabilmente è in un momento di grande tensione anche interna. Tu che hai potuto girare, sei stata anche a vedere il canale di Suez, che impressione hai avuto? Sì, allora, come dicevi tu, oggi siamo andati proprio dal Cairo al canale di Suez. Allora, quello che abbiamo visto è che i controlli in effetti sono molti, le misure di sicurezza sono piuttosto alte, strade a parte, ogni albergo comunque ha il metal detector e per le strade si trovano una serie di checkpoint, vengono chiamati così, sono dei presidi armati al fianco della strada, una sorta di posti di blocco. Ci sono molti uomini armati, i poliziotti sono vestiti di nero con il mitra e una sorta di passamontagna, comunque si vede che per la maggior parte sono dei ragazzi molto giovani. Si incontrano anche dei armati, anche perché dobbiamo ricordare che nella parte nord del Sinai si combatte, c'è proprio lì, c'è proprio un gruppo affiliato all'ISIS. Quindi l'esercito e la polizia armata presidiano tutti i punti sensibili della città, tra queste le ambasciate come la nostra, appunto, che si trova qua al Cairo. Mi hanno raccontato poi che da quando è diventato presidente al-Sisi, a giugno 2014, al-Sisi, ricordiamo, ha destituito Mohamed Morsi, sostenuto dai fratelli musulmani, i controlli e i posti di blocco sono aumentati e anche gli attacchi, se vogliamo chiamarli così, a loro non piace chiamarli attentati, non vogliono chiamarli attentati perché dicono che in effetti non sono attentati. Mi hanno detto che più o meno due volte al giorno, considerando però tutta la Repubblica d'Egitto, vengono fatti esplodere ordigni rudimentali, c'è una sorta di bombe primitive. La gente comunque, ci tiene a ribadire che la gente non ha paura, è in giro e si vede comunque la città è molto molto trafficata. Il messaggio che vogliono dare gli egiziani è quello della sicurezza. Io ho parlato con loro, ho parlato con alcuni di loro, hanno ribadito più volte che l'Egitto è un paese sicuro, che c'è qualche episodio ma isolato e non si tratta di veri e propri attentati. Quindi loro comunque ci vogliono dare questa immagine di sicurezza e in effetti comunque di questi episodi isolati, bisognerà vedere poi che cosa succederà. La sicurezza comunque c'è ed è piuttosto alta. Grazie Livia Zancaner dall'Egitto. Ciao Livia. E questa è la situazione, almeno il clima. Buonasera. Ciao, che si vive al Cairo. Mi pare che ci sia il nostro Dario Ricci, però, che ci deve aggiornare da Torino direttamente per la Juventus. Dario? Ci sono dei gol, sì, da parte di chi? Sì, buonasera Roberta, lo Juventus Stadium, qualificazione difficile da scalare come una piramide per la Juventus, siamo al 23esimo del primo tempo ed è 1-1 il risultato. Seguiamo questo calcio d'angolo di Pirlo, poi vi racconto le due reti, la deviazione di Ciro Immobile, ancora in calcio d'angolo Ciro Immobile, ex del Torino, ora al Borussia Dortmund. Ebbene, Juventus in vantaggio al 16esimo, contropiede di Morata, la conclusione, Weidenfeld respinge, sulla palla si avventa Tevez che sigla l'1-0, ma vantaggio che dura appena 5 minuti perché il Borussia si fa sotto, clamoroso scivolone difensivo di Chiellini che libera la strada verso la porta di Buffon per Marco Reus che di destro sigla l'1-1, quindi un errore difensivo davvero grave di Chiellini che ha vanificato il vantaggio di Tevez e reso davvero difficile ora la partita per la Juventus. Il gol segnato fuori casa agevola e non di poco il Borussia Dortmund. 24esimo del primo tempo allo Juventus Stadium, 1-1 tra Juventus e Borussia Dortmund. Grazie Dario Ricci da Torino, continuate a seguirmi, mi raccomando, effetto note, anche aggiornamenti proprio all'ultimo e poi naturalmente tutti gli ospiti e i temi che tratteremo man mano. Rimaniamo ancora all'estero con questa brutta notizia di cronaca, la strage in un ristorante in Repubblica Ceca all'ora di pranzo oggi. Un uomo con problemi mentali ha aperto il fuoco contro i clienti di un locale di Urske Ariste, cittadina vicino al confine con la Slovacchia. Il 60enne ha ucciso 8 persone prima di rivolgere il fucile contro se stesso. Il killer, proprio prima di entrare in questo ristorante, aveva telefonato a una TV privata annunciando il suo gesto e dicendosi vittima di bullismo. E adesso ce ne occuperemo di più con un ospite, un quirinalista che avremo più tardi, della visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione della Scuola Superiore della Magistratura. Ha toccato il tema molto delicato della giustizia, ma si è fatto notare anche perché ha viaggiato con il tram e con il treno per raggiungere Firenze. Non è la prima volta, insomma, comincia ad avere delle abitudini che lasciano il segno per il momento. Restiamo sulla politica con le fibrillazioni della Lega. Ospite di Repubblica TV, il segretario della Lega Nord Mattia Salvini attacca Tosi, che era ieri ospite qui effetto notte. Zaia non si discute, dice Salvini, chi lo mette in discussione si mette fuori gioco, se c'è qualche leghista che ha tempo da perdere per le beghe interne la porta è aperta. Sentiamo Salvini. Zaia non si tocca, quindi chiunque discuta uno dei governatori più amati di sempre lo fa fuori dalla Lega. Senza problemi, non c'è il problema Tosi contro Tizio, contro Caio. C'è Regione Veneto, che è la regione che ha i conti migliori in Italia, una delle sanità migliori d'Europa, a un governatore apprezzato da nord a sud, chi lo mette in discussione si mette automaticamente fuori gioco. Ma non ho voglia di perdere tempo, di litigare, di questionare. Il mio problema è il governo Renzi, che è un governo incapace e pericoloso. Se c'è qualche leghista che ha tempo da perdere su beghe interne, lo fa fuori, si accomoda fuori. Ma questo vuol dire che Tosi si può accomodare fuori? No, non lo so, se Tosi dà una mano a Zaia perché diventi governatore, fa il suo mestiere. Ieri, insomma, Tosi ha ribadito che lo statuto della Lega prevede che ogni regione debba decidere autonomamente le proprie candidature allo statuto della Lega. Era qui, vi dicevo, a effetto notte, perché l'ha sentito ieri in diretta. Dopo aver spiegato la situazione, le sue motivazioni, e a proposito di una possibile riappacificazione con Salvini, che gli ha teso la mano, ieri è arrivata un'agenzia dove lui elogiava Salvini per la sicurezza a Verona, di cui è sindaco, sentiamo che cosa ha detto Tosi. Questa sera ospite di Quinta Colonna su Rete 4 ha detto Salvini: se si vuole si può sulla sicurezza. A Verona ad esempio, dove c'erano campi rom e non ci sono più, perché se un sindaco si fa rispettare la legge, se un sindaco fa rispettare la legge, le cose tornano alla normalità. Lancia il modello Verona sulla sicurezza. Fate pace in un secondo? Ma allora, quando c'è la volontà di trovare con buon senso una soluzione, le soluzioni si trovano. Penso che la speranza di tutti sia quella, dopodiché si vede, insomma, le cose come evolvono nel tempo. Insomma, la tensione è alta, come avete sentito. Passiamo alla cronaca giudiziaria, quel caso di Melania Rea per la Cassazione. Parolisi uccise in un impeto di ira, non ci fu premeditazione. Non crudeltà, ma impeto. Salvatore Parolisi ha ucciso la moglie Melania Rea in un'esplosione di ira, nata durante un litigio dovuto alla conclamata infedeltà coniugale dell'uomo. In questo contesto, il numero di colpi inferti, 36 coltellate, non può essere ritenuto fonte di aggravamento di pena, e neppure l'abbandono in stato di agonia. E quanto sostengono i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza, che ha ridotto la condanna dell'ex caporalmaggiore facendo cadere l'aggravante della crudeltà. Secondo i supremi giudici, l'uccisione di Melania Rea, Civitella del Tronto, il 18 aprile 2011, non fu dunque premeditata. Le modalità esecutive, scrivono i giudici della Suprema Corte, alimentano la considerazione di un'azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di rabbia e aggressività. Il processo di primo grado si era concluso con la condanna di Parolisi all'ergastolo con tutte le sanzioni accessorie. In appello la pena fu ridotta a 30 anni di carcere dopo la scelta del rito abbreviato. Ora la pena dovrà essere nuovamente ricalcolata. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le vicissitudini di Gigino Paoli in questi giorni, con una lettera presentata al consiglio di gestione che era in corso a Milano, si è dimesso dalla presidenza della SIAE per questioni di accuse di evasione fiscale. Dice: voglio difendere la mia reputazione di uomo per bene. Così ha detto Gino Paoli. Rassegno al presente consiglio le mie dimissioni irrevocabili, con la certezza che la SIAE saprà continuare la sua missione di tutela della creatività italiana. Ha preso carta e penna Gino Paoli e ha formalizzato con una lettera al consiglio di gestione le sue dimissioni dalla presidenza. Una decisione presa dopo le accuse a suo carico di evasione fiscale, di aver portato in Svizzera illegalmente 2 milioni di euro. Paoli spiega di non voler coinvolgere la SIAE in vicende che devono restare estranee alla società e si dice certo di non aver commesso reati, con il rispetto assoluto di chi sta doverosamente svolgendo il suo lavoro di indagine. Scrive ancora: intendo difendere la mia dignità di persona per bene. Intanto il suo avvocato Andrea Vernazza sostiene che Paoli voleva rimettersi in regola, voleva far rientrare il denaro depositato in Svizzera e per questo si era rivolto al commercialista. Il 2 marzo il cantante genovese sarà interrogato dai magistrati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e questo è il riassunto della giornata. Adesso tra poco passeremo man mano ai vari temi con gli ospiti. Voglio leggere però già qualcuno dei vostri messaggi che sta arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666. Questi sono gli sms. Per esempio Clotilde, a proposito dell'incipit dell'audio iniziale dove Renzi ha detto finalmente vediamo l'arcobaleno, Clotilde scrive: possiamo mandare il Fiorentino alla fine dell'arcobaleno, così mentre c'è cerca la pentola piena di monete, noi abbiamo la speranza di levarcelo di torno. Vittorio dice: noi vediamo le stelle, probabilmente essendo anche sera. Filippo da Milano: Monti e Saccomanni vedevano la luce in fondo al tunnel, Renzi vede l'arcobaleno, ma gli italiani stanno sempre peggio, suggerirei un po' meno visioni, un po' più di concretezza, così dice Filippo. La nostra economia migliora, scrive Alberto. Renzi ha le visioni, sì, magari dovrebbe ridurre il vino a pranzo. Insomma, c'è poco ottimismo, diciamo. Andrea da Bologna: salve arcobaleno solo con diminuzione delle tasse, altrimenti solo un'altra suggestione di mister Renzi. E potete continuare a scrivere, poi man mano tratteremo i vari temi. Vi dicevo che c'è questa buona notizia su chi potrà restaurare la barcaccia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo, stavo guardando appunto le notizie, c'è anche un'agenzia di adesso che riguarda il Venezuela. Un liceale 14enne è morto dopo essere stato raggiunto da uno sparo alla testa mentre partecipava in una manifestazione antigovernativa in Venezuela, vicino all'Università Cattolica di San Cristobal, capitale dello stato di Táchira nell'ovest del Venezuela. Tanto per aggiornarci anche al di fuori naturalmente dei nostri confini. Quali sono le altre notizie importanti del giorno? Sono queste. L'Eurogruppo approva il piano di Tsipras, ma Draghi della BCE dice ci sono delle lacune, e la cancelliera Merkel afferma Atene torna alla realtà. Renzi rafforza il patto con Olanda, sostegno sulla Libia, insieme per crescita e riforme è stato siglato l'accordo per la TAV. Il primo monito di Mattarella c'è stato, c'è bisogno di legalità, ha detto il Presidente della Repubblica. L'ISIS assalta dei villaggi cristiani in Siria, ci sono decine di rapiti, e in Yemen è stata sequestrata una cittadina francese. La Lega Nord spaccata in Veneto, Salvini dice a Tosi o con Zaia o fuori, il sindaco dice si prenda la responsabilità. E poi Gino Paoli che si dimette dalla SIAE per accusa di evasione fiscale, dice difendo la mia dignità, io sono una persona per bene. E poi i mondiali del 2022 che si faranno in Qatar ma a Natale, perché sennò farebbe troppo caldo, e ci sono le leghe europee che si ribellano. E poi c'è il Juve in Champions League a Torino contro il Borussia, sono ancora se non sbaglio 1-1. Europa 24 notte. Vi dicevo quindi all'inizio che finalmente nell'ennesima puntata che riguarda la Grecia in questa saga infinita arriva una buona notizia. Sapete che ieri sera il governo greco doveva presentare a Bruxelles una lettera con tutta una lista delle riforme che intende fare per poter avere un prolungamento degli aiuti finanziari da parte dell'Unione Europea. Ha rimandato, ha preso ancora un po' di tempo, è slittato oggi, e questo piano di riforme è arrivato e sembra che l'Eurogruppo abbia apprezzato. È vero, Sergio Nava, ce l'avamo lasciati ieri con un dubbio, con dei punti interrogativi, mi sembra che per il momento si possa essere abbastanza ottimisti. Ciao Roberta, sì, diciamo l'Eurogruppo non solo ha apprezzato, nel senso che ha detto ok, questa lettera, tra l'altro una lettera di 6 pagine che gli ascoltatori non possono che vedere, non leggeremo, ma tu, non la leggeremo, però sono 6 pagine suddivise in vari capitoli, sono impegnative, è certo. Firmata da Yanis Varoufakis, che è il ministro, l'eccentrico ministro delle finanze greco, più che eccentrico lo chiamano il sex symbol adesso tra i politici, è una questione di donne chiaramente ma anche di uomini volendo, comunque, questa lettera insomma sostanzialmente quello che fa è cercare il compromesso, nel senso che lo dicono anche le reazioni che ci sono state dall'ormai ex troica, che ancora è troica, però ormai la chiamano istituzione. Però non si deve più chiamare così, la Grecia non vuole chiamare così. Sono la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Europeo Internazionale e la Commissione Europea. Ecco, sono le 3 istituzioni. Hanno detto tutte la stessa cosa, sostanzialmente, con gradi diversi. Hanno detto va bene, sono riforme che vanno nella direzione giusta. Draghi, nella sua lettera, ha detto alcune forse proprio non sono esattamente in linea con il vecchio memorandum, però vediamo se vengono sostituite da misure anche migliorative o comunque che hanno un impatto neutro sulle finanze, possiamo parlarne. Però appunto la linea europea è stata tendenzialmente vanno bene, però aspettiamo il 30 aprile per vedere la lista dettagliata, perché loro stessi, insomma le istituzioni, hanno detto in 3 giorni molto non si poteva fare con un governo comunque da pochi mesi in carica, da poche settimane in carica, per cui non è un'approvazione totale. Tra l'altro il fatto curioso è che per motivi costituzionali alcuni paesi, tra cui la Germania, neanche a farlo apposta, devono approvare entro il 28 febbraio, cioè entro fine settimana, questa decisione dell'Eurogruppo. Cioè ci deve essere una ratifica parte di alcuni stati. Perché questa cosa, Sergio? Sono fondamentalmente questioni costituzionali, per cui se c'è un provvedimento come l'estendere, insomma, che ha un impatto poi finanziario, perché insomma si parla di estendere degli aiuti europei che vengono suddivisi anche tra i paesi europei a un paese. Questa decisione va poi ratificata ai parlamenti nazionali, tra questi c'è proprio la Germania e Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha detto il falco comunque a quanto si è saputo all'interno del suo partito, in una riunione interna ha detto che chiaramente sosterrà, dirà di sì. Ci sono dei mal di pancia anche nella CDU, partito di Angela Merkel, però andando, perché non l'abbiamo ancora dettagliate, però per macro aree possiamo dire che alla fine sostanzialmente queste misure del governo greco includeranno sì tanta lotta all'evasione, includeranno liberalizzazioni, includeranno una forte spending review, si parla di ridurre i ministeri da 16 a 10, di togliere consulenti, togliere benefit, rivedere l'IVA. Poi sulle parti diciamo più controverse come le privatizzazioni, qui c'è il passo indietro, perché il governo greco, e prima le aveva di fatto bloccate, dice quelle già portate avanti, quelle portate avanti non le tocchiamo, sulle altre ci consultiamo con voi, non c'è più una stop, così come pure sulle misure più relative ai salari, relative anche appunto al reddito minimo, c'è un, come dire, andiamo avanti, però consultandoci con voi, cioè l'intransigenza del primo Tsipras che aveva vinto le elezioni improvvisamente si è un po' dissolta. Si sono ammorbiditi da entrambe le parti. Comunque sembra per ora che sia avviata una buona strada. Staremo a vedere. Grazie Sergio. Grazie a te. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. E tra uno Stato e l'altro, tra questioni economico-finanziarie, crisi eccetera, vogliamo alleggerirci un po' con Crozza sulla 7 di martedì? Vediamo chi sta imitando. It's a might. È un mito. Addirittura un mito. Io Renzi sì. Lo stimo come l'audio. Credo che sia Marchione per dalla parrucca e anche dal piglio. Ha fatto il Jobs Act. Sì, è passato questa settimana. Non so se lei sa che ogni imprenditore risparmia 8.000 euro di contributi. Sì. Per ogni nuovo assunto. Sì, sono le agevolazioni che... Non so se lei capisce. Non voglio che dica grazie a Renzi, ma io guadagno assumendo. Vabbè, sì, sono agevolazioni. Il contrario di quello che ho fatto per 30 anni. Vabbè, questo l'ha detto lei. Ma non... Io adesso assumo tutti. Operai, gente per la strada, sull'autobus, sì. Circensi, orsi, vabbè, marsicani. Non esageri, però... Lo sa solo oggi quanti operai... No, ci sono buone notizie anche per l'occupazione evidentemente, però adesso dall'Italia, dalle ipotesi che fa Marchione Crozza, passiamo al vertice italo-francese che c'è stato oggi a Parigi tra Renzi e il presidente francese Hollande. Sono stati firmati diversi accordi, mi pare 7 in particolare, c'è di mezzo la TAV, la controversa o contestata come volete TAV, la cooperazione sulla ricerca scientifica e tecnologica e vari altri punti che adesso magari ci dettaglia il nostro Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Buonasera a voi. Ma sì, è un vertice molto concreto, al di là dei tanti accordi, in realtà molto più puntuali e di merito, diciamo, il sicuramente l'accordo centrale del vertice è quello che sblocca definitivamente la Torino-Lione, quello che garantisce che il cantiere del tunnel transfrontaliero si apra nel 2016 con i finanziamenti necessari almeno per quanto riguarda la prima fase, quella che va dal 2014 al 2020, con il contributo dell'Unione Europea per una percentuale pari al 40%, ed è come ha detto in conferenza stampa finale il presidente francese François Hollande, è la realizzazione certa e definitiva della Torino-Lione dopo 14 anni dal primo accordo del 2001. Direi che questo è sicuramente l'elemento centrale più concreto del vertice. Ho visto che hanno protestato anche i Verdi francesi, beh, visto anche il partito, la loro formazione, era abbastanza, diciamo così, tra virgolette, scontato, che dicono è un progetto del secolo scorso, un'aberrazione che la Francia e l'Italia si affannano a sostenere a dispetto del buon senso e dell'opposizione delle popolazioni coinvolte. Sappiamo anche che da parte delle popolazioni italiane, diciamo, che abitano in quelle zone, sappiamo che cosa è successo finora, insomma, però questo accordo è stato definitivamente varato, insomma, Marco Mussanelli. Sì, sì, assolutamente, c'è il finanziamento di 3 miliardi per appunto l'avvio dei lavori del tunnel, sono i 57 chilometri di tunnel transnazionale che dovranno appunto collegare Torino-Lione, e il costo finale del tunnel è di circa 8 miliardi e mezzo per un orizzonte temporale che va appunto oltre il 2020, e poi no, pian piano a pezzi si vedrà. È chiaro che la realizzazione poi, diciamo, dell'intera opera è molto più lunga, si parla di un'apertura nel 2030 per un costo finale complessivo di circa 26 miliardi, però insomma, diciamo, questa è comunque la decisione che sicuramente garantisce che i lavori del tunnel verranno avviati. Quindi vedremo tra almeno 15 anni, insomma, i lavori definitivi. Hanno parlato anche di Libia. Allora sentiamo Marco Mussanè questo passaggio di quanto Renzi ha detto a proposito appunto di possibili interventi in Libia. La pace in Libia la possono fare solo i libici. Non la possiamo fare noi per loro. Sono le tribù che devono innanzitutto fare l'accordo in Libia. Noi siamo disponibili a lavorare in questa direzione, e se dovesse fallire chiederemo che l'intervento diplomatico dell'ONU sia ancora più forte. Oggi non è all'ordine del giorno un intervento di peacekeeping. Ecco, quindi anche di Libia mi pare che fossero d'accordo, no? C'era un'intesa. In generale sicuramente le relazioni tra i due paesi sono molto molto buone. Questo è il primo vertice al quale partecipa Renzi, però è sicuramente un momento di grande accordo, di grande assonanza nelle posizioni dei due paesi. Sulla Libia sicuramente c'è una posizione comune, la Francia appoggia pienamente le iniziative italiane, sia per quanto riguarda l'intervento appunto diplomatico dell'ONU, sia per quanto riguarda gli interventi nel Mediterraneo per far fronte agli sbarchi di clandestini. Tutto è molto legato a questo punto al nuovo incontro, al nuovo round negoziale che si svolgerà giovedì in Marocco, è chiaro che se le parti libiche non dovessero mettersi d'accordo e trovare quindi una soluzione, è chiaro che l'ONU a questo punto dovrà esercitare una pressione ulteriore dal punto di vista diplomatico, perché in effetti uno sblocco a questa crisi si riesca a trovare. Grazie Marco Mussanè, salutaci Parigi. Grazie a voi. Ciao Marco. Noi invece ci spostiamo subito a Torino, perché di nuovo Dario Ricci deve comunicarci dei gol. Vediamo se da parte della Juventus o del Borussia. Dario? Sì, da parte della Juventus. Roberta, siamo al 44esimo del primo tempo e da due minuti la Juventus è tornata in vantaggio. C'è stato un contropiede orchestrato da Tevez, l'apertura sulla sinistra per Pogba, il cross raso terra al centro sul quale si è avventato Morata, che sotto misura ha battuto Weidenfeller. Juventus 2, Borussia 1, Juventus che aveva accusato il pareggio tedesco di Reus dopo il vantaggio al 13esimo siglato dallo stesso Tevez, ma ora è arrivato alla rete di Morata, gli juventini hanno ripreso fiato, coraggio, e si riportano ora sotto dalle parti della metà campo del Borussia. Siamo a 30 secondi dalla fine del primo tempo, Juventus 2, Borussia Dortmund 1 a Torino. Grazie Dario Ricci, poi man mano se ci saranno dei gol o altre cose di rilevanza naturalmente ci collegheremo con Dario Ricci. Intanto, prima di lasciarci per questa pausa, leggo i vostri messaggi, uno anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio Cristiano che dice di questa buona notizia che riguarda una società olandese che vorrebbe restaurare la barcaccia a Roma, dice: è uno slancio lodevole, ma stasera vorrei io sfregiare l'arcobaleno di Renzi di cui ha parlato Renzi e piegarlo su di lui, naturalmente impreziosendolo in arcobalengo. Oh, stasera siete tutti abbastanza ironici. Poi Eloisa dice: hai sentito anche tu, Roberta, di quel sito di crowdfunding, cioè di raccolta di fondi lanciato in Olanda per contribuire al restauro della barcaccia? Sì, devo dire che ci sono state varie iniziative, ma forse questa di cui vi parlerò più tardi questa sera potrebbe essere quella ufficiale. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 e naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Stavo guardando i vostri messaggi, sia al 349-238-6666, in attesa naturalmente di trattare i prossimi temi con i prossimi ospiti. E sulla pagina Facebook di Effetto Notte c'è Lidia che dice: se tutti si informassero bene sulla TAV sarebbero tutti contrari, anche i giornalisti. Parla dell'accordo definitivo che c'è stato al vertice italo-francese, di cui parlavamo poco fa con il corrispondente da Parigi, tra Renzi e Olanda, che hanno firmato tre vari accordi oggi, anche questo per la TAV, che dovrà essere completata, la Torino-Lione, l'alta velocità, entro il 2030, e si parla per ora di 8 milioni e qualcosa di euro. Vedremo poi fino a quella data se dovessero mai crescere questi soldi. E poi a proposito invece dell'arcobaleno, dell'audio che avevo sentito all'inizio di Renzi, che dice in Italia dal punto di vista economico non piove più, stiamo cominciando a vedere l'arcobaleno, vari messaggi un po' contrariati. Per esempio anche Stefano sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: ma Renzi dove vede che l'economia migliora? Perché non si fa un giro tra le attività commerciali? Non penso che sarà dello stesso avviso o continuerà a dire questa falsità. Però vi riepilogo, visto che c'è stata questa pausa, se avete acceso ora invece di accendere puntualmente le 21, quelle che sono le notizie principali della giornata. Grecia, l'Eurogruppo apprezza il piano di riforme del governo greco e proroga così gli aiuti per 4 mesi. Per Draghi è un buon punto di partenza, ma ci sono delle lacune. Il vertice italo-francese, Renzi rafforza il patto con Olanda, sostegno sulla Libia, insieme per crescita e riforme. Il primo intervento pubblico di Mattarella, ne parleremo tra pochissimo. Poi l'ISIS con i terroristi islamici che assaltano i villaggi cristiani in Siria, rapiscono decine di persone, e anche in Yemen è stata rapita una cittadina francese. Le devastazioni a Roma degli hooligans del Feyenoord, una società olandese si offre di restaurare la barcaccia. Ci sarà il portavoce dell'ambasciatore olandese a Effetto Notte. Per il calcio, in campo a Torino la Champions League, la Juventus contro i tedeschi del Borussia. Per il momento conduce la Juventus 2-1. E parliamo a questo punto del primo monito di Mattarella, cioè il monito che si attribuisce sempre di solito ai presidenti, quindi inizia naturalmente anche Mattarella, ma prima di tutto ha fatto di nuovo parlare di sé il Presidente della Repubblica per il mezzo di trasporto, i mezzi di trasporto che ha utilizzato oggi. Giorni fa aveva usato un volo di linea per andare a Palermo, quindi non un volo presidenziale, istituzionale eccetera. Oggi per andare a raggiungere Firenze ha usato il treno, poi per muoversi da Firenze a Scandicci per andare all'inaugurazione dell'anno della Scuola Superiore della Magistratura ha preso il tram. Saluto Marzio Breda, ciao Marzio. Buonasera, ciao. Criminalista del Corriere della Sera. Quindi partiamo da questa cosa, prima ancora del suo monito sulla giustizia eccetera. Secondo te è un suo modo di lanciare subito un messaggio di sobrietà, di semplicità? Vuole fare concorrenza a Papa Francesco? Ecco, oggi è stata evocata un po' anche questa cosa, no? Io direi che sì, ha un quasi significato di una scelta di ecologia politica, chiamiamola così, cioè vale a dire da un lato come dire, indicare un esempio a tutti quei politici che smaniano per le auto blu, i cortei, le sirene, i lampeggianti accesi, insomma c'è un abuso di questa cosa, che di questi simboli, no, che contribuisce a la disaffezione dei cittadini rispetto all'istituzione, alla politica. C'è sicuramente questa cosa. C'è poi comunque il fatto che lui vorrebbe, diciamo così, poi non sappiamo se in futuro gli sarà più consentito fare questo, vorrebbe continuare a muoversi come si è sempre mosso, da cittadino normale. Lui a Roma abitava in una foresteria di 40 metri quadri, è un gran camminatore. Insomma, voglio dire, cerca di evitare appunto tutte queste simbologie del potere. Nel caso specifico di oggi, però, questo tram l'ho preso anche perché da un lato non voleva disturbare la città con un corteo il solito di 30 macchine, sirene eccetera. Dall'altro lato credo che ci sia stato anche lo zampino del sindaco Nardella, che quando si è profilata questa visita, sia pur molto breve, gli ha detto: ma perché guardi che noi abbiamo inaugurato questa tranvia da poco tempo e quindi ha preso questa cosa. Però da un certo punto di vista, perché dico che non si sa quanto potrà durare questa cosa, perché voglio dire, sono le ragioni della sicurezza che oggi è un po' impazzita per questo motivo, insomma. Il paragone con Papa Francesco mi pare un po' azzardato, francamente, però devo anche dire che non mi sembra di cogliere un compiacimento narcisistico, insomma mi pare che è il suo modo di essere che lui vorrebbe continuare a mantenere. E va anche, si sposa sia col viaggio che hai citato prima, che era a privato, Palermo. Andava al cimitero a Palermo, poi a casa a prendere un po' di robe, sia con l'apertura che lui ha annunciato che avverrà in poco tempo, il tempo appunto di organizzarsi, del Quirinale tutti i giorni e per molte più saloni, per una parte ben più grande di quella che ora è visibile col contagocce, ecco. Quindi aperto ai cittadini. Marzio, però, poi, ecco, a parte queste particolarità che connotano un po' la sua figura di nuovo presidente, ha subito toccato un tema nel suo primo monito, un tema molto molto delicato, molto sentito in Italia, che ha creato grandi conflitti e continua anche a creare tensione, che è quello della giustizia. Sentiamo che cosa ha detto. La capacità del magistrato di svolgere il compito fondamentale affidatogli dalla Costituzione, un compito né di protagonista assoluto del processo, né di burocratico amministratore di giustizia. Si tratta di due atteggiamenti che snaturano la fisionomia della funzione esercitata. Vale sempre il monito di Piero Calamandrei. Il pericolo maggiore che in una democrazia minaccia i giudici è quello della assuefazione, dell'indifferenza burocratica, dell'irresponsabilità anonima. Ecco, ha risposto Mattarella anche un ascoltatore, Marzio Breda, che scrive in questo momento: cosa vuol dire che i giudici non devono essere burocrati? Vuol dire questo, cioè la giustizia, l'amministrazione della giustizia entra nella carne viva della società, cioè le sentenze, le inchieste eccetera proprio toccano da vicino i diritti fondamentali della persona eccetera. Quante volte abbiamo visto e vediamo magistrati prendere decisioni incomprensibili per l'opinione pubblica, riparandosi poi dietro, come dire, cavilli oppure l'applicazione ottusa della legge. Ecco, questo lui dice, l'esercizio non burocratico di questo ruolo, lui vuol dire, e dovete entrare anche in sintonia con la società, porvi anche questo problema, non essere, come dire, un mondo a sé stante, quello dei magistrati, per cui la giustizia è vista come una specie di trappola, di trabocchetto, di fregatura continua, diciamo. L'altro aspetto del protagonismo è in sintonia anche con il modo d'essere, diciamo, di Mattarella, ma è anche in sintonia con tanti richiami fatti anche da Napolitano prima di lui e anche da Ciampi, cioè questo fatto per cui certi magistrati, molti magistrati, come dire, sono continuamente e si prendono la scena come se fossero investiti di un ruolo improprio, un ruolo missionario che competesse a loro di bonificare la società. Questa è una lettura del ruolo che è sbagliata e lui oggi gli ha dato questo avvertimento. È curioso, va sottolineato, che tutto questo accade mentre in Parlamento, proprio anche stanotte, si sta votando sulla responsabilità dei giudici, quindi da un provvedimento di legge molto contestato dai giudici, e quindi è come se Mattarella, che oggi aveva di fronte ai giudici, quindi si è rivolto a loro, ha detto: voi dovete fare la vostra parte, cioè la vostra parte è rendere più efficiente la giustizia, perché questo paese, dopo anche l'ultimo anno di scandali a ripetizione, amministratori della cosa pubblica, eccetera. Non è vero poi che è un paese così cinico, così assuefatto alle porcherie. C'è una forte, grossa e sentita esigenza di giustizia, questo ha detto, e quindi fate la vostra parte. Tra l'altro, Marzio, bisogna ricordare che prima di fare il Presidente della Repubblica lui era giudice della Corte Costituzionale, no? Sì, che poi è diciamo quello che si chiama Tribunale delle Leggi, cioè è il giudice, quel contesto dove si analizza la costituzionalità delle leggi. Poi lui, prima ancora, era un docente di diritto costituzionale, quindi lui è proprio, il suo intero spirito è pervaso. Diciamo che la sua parentesi politica è stata relativamente breve dentro la Democrazia Cristiana, eccetera. Però lui è e soprattutto resta un costituzionalista, e quindi in questo caso, come dire, gli ha indicato ai magistrati quello che la Costituzione prevede per loro. Particolarmente sensibile e competente in materia, insomma. Grazie Marzio Breda. Buona serata. Ciao Marzio. C'è la viabilità, aggiornamenti per chi viaggia. Voi continuate con i vostri commenti al 349-238-6666 e sapete che anche la pagina Facebook di Effetto Notte è sempre lì per voi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie ultime arrivate, parlavamo prima con Marzio Breda del fatto che del monito che ha lanciato i magistrati Mattarella, ma anche del fatto che si sta votando, si vota forse anche stanotte sulla responsabilità civile dei magistrati. C'è una dichiarazione, adesso un flash, che riguarda il ministro della giustizia Orlando, che dice: valuteremo con laicità gli effetti di questa norma sulla responsabilità civile e siamo disponibili a guardare concretamente, semmai a correggere alcuni punti che sono stati segnalati, ma ritengo, dice Orlando, che sarà sufficiente la giurisprudenza a chiarire che molti dei pericoli paventati non hanno riscontro. Come si diceva, insomma, è una norma che crea molte preoccupazioni e dissapori soprattutto tra i magistrati, tra i giudici. Le altre notizie importanti sono che l'Eurogruppo, vi dicevo, approva il piano di Tsipras per estendere quindi il piano di aiuti, ma chiede più concretezza nelle riforme. Renzi incontra Hollande, il vertice italo-francese oggi a Parigi, si rafforza il patto tra le due nazioni, sostegno sulla Libia insieme per la crescita e le riforme, siglano l'accordo per la TAV. Il primo monito di Mattarella, i magistrati lo abbiamo sentito. L'ISIS che assalta villaggi cristiani in Siria e prende in ostaggio decine di persone. La Lega Nord che è spaccata in Veneto. Salvini che continua a incalzare contro Tosi, che è stato anche ieri ospite qui a Effetto Notte. E poi Gino Paoli che si dimette dalla SIAE: difendo la mia dignità, io sono una persona per bene, dice dopo essere stato accusato di evasione fiscale. E adesso invece parliamo della legge di stabilità o manovra, come la si voglia chiamare. I giudici della Corte dei Conti, i giudici contabili come si chiamano, hanno inviato un rapporto al Parlamento sul quadro proprio dei conti pubblici e fa i conti, per questo vestigio di parole, sulla legge di stabilità, e torna a parlare la Corte dei Conti di spending review. Tra l'altro era così tanto che non ne sentivamo parlare. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Salvatore. Chicco. Ciao, buonasera. E perché si torna a parlare? C'è di nuovo un problema di coperture? Sembra che la cosa fosse ormai archiviata, invece... No, queste cose ahimè non si archiviano mai. Dunque, oggi la Corte dei Conti, anzi direbbero nei giorni scorsi, la Corte dei Conti ha inviato al Parlamento un documento che fa tutti gli anni. E il documento è intitolato Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità. Che cosa fa la Corte dei Conti? Va, diciamo, a prendere le misure contenute nella legge di stabilità e cerca di capire se quelle misure potrebbero avere innanzitutto gli effetti desiderati e poi se questi effetti saranno positivi, se saranno, diciamo, in linea con le aspettative, e incrocia, diciamo, tutto questo scenario con le variabili nuove dell'economia. Per esempio, da quando abbiamo approvato la legge di stabilità all'inizio dell'anno a oggi, il quadro economico è molto cambiato, no? Siamo in presenza, diciamo, di una moneta come l'euro che si è, diciamo, molto indebolita rispetto al dollaro, e questo dovrebbe portare benefici all'economia. Il prezzo del petrolio in questi ultimi mesi ha subito una riduzione consistente. Sappiamo che dal mese prossimo la Banca Centrale, la BCE, Banca Centrale Europea inizierà ad acquistare, a riacquistare, diciamo, i titoli del debito pubblico dei singoli paesi, immettendo quindi nel sistema enormi quantità di liquidità. Quindi la Corte dei Conti dice, beh, insomma, si sta creando una situazione abbastanza favorevole, perché queste nuove condizioni dell'economia, unite ad alcune misure contenute nella legge di stabilità, dovrebbero in qualche modo, insomma, aiutare e avviare quella ripresa che tutti da tanto tempo aspettiamo. Però ovviamente la Corte dei Conti non guarda solo l'aspetto positivo, che è quello che abbiamo detto, ma dice attenzione, perché nella legge di stabilità ci sono anche diverse cose sulle cui bisogna, insomma, fare molta attenzione. Una di queste è proprio quella che hai citato tu, cioè la spending review. Che cos'è la spending review? L'abbiamo spiegato molte volte, è un sistema che deve consentire di intervenire sulla spesa pubblica per, diciamo, ridurla, tagliarla, per renderla più efficiente, e che, se ho fatto bene i conti, da qui al 2017 dovrebbe garantire per noi, per l'Italia, circa 27 miliardi di risparmio. Quindi noi ci siamo impegnati nei prossimi tre anni, 2015, 2016, 2017, a risparmiare 27 miliardi di spesa pubblica. La Corte dei Conti dice attenzione, perché, insomma, in passato non è che i governi abbiano mai dimostrato una grandissima capacità di fare effettivamente risparmi sulla spesa pubblica. Quindi i tagli vengono spesso annunciati, sono previsioni, però poi è difficile, insomma, mantenerli. Quindi bisogna fare attenzione, questo dice la Corte dei Conti. Vigile la Corte dei Conti. Grazie Salvatore. Chicco Padula, ciao Chicco, buon lavoro. E passiamo alla buona notizia, quindi, che arriva dall'Olanda. Vi dicevo, a proposito del scempi, degli empi, del Feyenoord a Roma, tutte le devastazioni, soprattutto nel cuore della capitale, e le varie lesioni alla fontana della Barcaccia, si chiedeva chi pagasse, insomma. Adesso arriva una società di restauro olandese, la Koninklijke, non so se pronuncio bene, Woudenberg, che si dice scioccata dai recenti eventi di Roma e si offre di restaurare gratuitamente la Barcaccia del Bernini. Ne voglio parlare con Hart Herring, portavoce dell'ambasciatore olandese in Italia. Buonasera Herring. Buonasera. Quindi, insomma, sembra che si arrivi a un lieto fine, perché molti avevano detto, insomma, lo stesso sindaco Marino a Roma aveva detto all'ambasciatore olandese, forse i danni li dovete pagare voi, ma l'ambasciatore olandese aveva fatto sapere che non c'era questa intenzione, no? Il portavoce dell'ambasciatore. Adesso però sembra che ci sia questa svolta, si è fatta avanti questa società. Sì, ovviamente la questione è questa, che primo, in quanto nazione o Stato olandese, non potevamo offrire di pagare, perché non sono stati i cittadini onesti olandesi a perpetrare quelle devastazioni, sono stati i 200-300 hooligans che adesso stiamo ancora cercando, e cerchiamo di arrestarli per poter far pagare loro. Però, detto questo, adesso c'è un pullulare di iniziative da parte dell'Olanda, di privati, di aziende, di organizzazioni, di persone che sono sdegnati, orrificati, orribilati da quello che è successo, e che quindi cercano di dare una mano. Uno di questi è questo Koninklijke Woudenberg, così si pronuncia. Questa si pronuncia, non ci riuscirò mai. Sì, che è un'azienda specializzata in restauro, molto conosciuta, perché è quella che ha fatto dei lavori anche al Rijksmuseum e al Mauritshuis dell'AIA, che è il museo di Van Gogh, quindi non è l'ultima arrivata. Ha mandato questa offerta in una lettera all'ambasciata, che poi è stata girata al comune di Roma. Ma come detto, non è l'unica iniziativa, ci sono tante altre. C'è un'iniziativa di olandesi a Roma che si chiama Salvate la Barcaccia, c'è un'altra, scusa Roma, di olandesi cioè in Olanda, un'altra ancora, Wij zijn Romeinen, anche noi siamo romani, e c'è un'iniziativa molto carina di un ginnasio della città di Zwolle che ogni anno va in viaggio a Roma, e lo fanno il prossimo mese, e il prossimo mese vorrebbero dare i proventi di Roma al sindaco. Fa onore Hering all'Olanda, che si conferma uno stato civile, di questo siamo molto contenti, e non c'entrano purtroppo con questi barbari che spero riuscirete a identificare. Io intanto la ringrazio, Art Hering, grazie, saluti l'ambasciatore. Lo farò, grazie. Insomma, la buona notizia, chiudiamo con questa, ci risentiamo proprio tra poco.